America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Kathleen Kane in handcuffs. At one time, she was the top law enforcer in the state. Going to jail now in shame. Bene, chi mi ascolta avrà sentito un paio di trasmissioni che ho dedicato al caso di Kathleen Kane, procuratore generale della Pennsylvania, condannata da un giudice per aver dato ai giornalisti verbali secretati di interrogatori con possibili sospetti. Ecco, questa è una delle cose che da noi succede regolarmente, ovviamente va sempre, tra virgolette, impunita. Ne ho parlato un paio di volte, adesso c'è stata ieri la sentenza e Kathleen Kane è stata condannata, si dovrà decidere esattamente, ma una pena fra i 10 e i 23 mesi di prigione, cioè dovrà andare fisicamente in carcere, a cui seguiranno 8 anni di libertà vigilata. Il tema, secondo me, è importante, ne parleremo nei prossimi giorni. Altro tema forte, abbiamo parlato della fusione fra Time Warner e AT&T, il colosso della telefonia, il colosso dell'entertainment. Bene, questa fusione è in questo momento in difficoltà. Pensate che il mercato ieri ha votato contro, di fatto. C'è una perdita del 3,6% del titolo di Time Warner, che ha chiuso a 86,70 centesimi, molto al di sotto, quasi il 20% al di sotto dei $107,50 che ha offerto AT&T per comprarla. Perché? Beh, non solo perché ci sono problemi politici, vi ho raccontato del fatto che sia i candidati presidenziali Donald Trump oppure Tim Kaine hanno espresso un parere negativo contro la formazione di questi colossi, ma perché naturalmente c'è il pericolo che le autorità antitrust, specialmente il Dipartimento della Giustizia, possano bloccare questa operazione. Il mercato invece, oltre a scontare questo pericolo, ritiene che non sia automatico che la fusione di due gruppi così diversi fra loro possa portare a economie di scala. Vedremo cosa succederà, perché la storia è molto interessante anche per l'Italia, per lo sviluppo del settore da noi. Ma passiamo alla politica. Perché? Beh, perché da oggi mancano 2 settimane, siamo esattamente a 2 settimane dalla fatidica data dell'8 novembre, giorno delle elezioni presidenziali americane. You see what's happening? The process is rigged. This whole election is being rigged. Ecco, sentite Donald Trump, ieri ha fatto comizi in Florida, ha ringato i suoi sostenitori dicendo: vedete tutti quello che sta succedendo? Il processo elettorale è stato falsato, l'intera elezione è stata truccata. In effetti, devo dire che la stessa manager della sua campagna elettorale, Kellyanne Conway, di fatto non dico che ha gettato la spugna, ma ha ammesso che la campagna Trump si trova in difficoltà sul fronte dei sondaggi. Dice: gli altri sono troppo forti, usano $60 milioni per farsi pubblicità negli spot televisivi, noi questi soldi non li abbiamo. E poi Hillary Clinton ha l'appoggio del marito con ex presidente, del presidente in camera Barack Obama, della moglie Michelle Obama, che è molto molto popolare, la figlia Chelsea, così via così via. Beh, sì, è vero, ma questa è la differenza fra i due candidati. Donald Trump, che ha voluto dare all'immagine un candidato solitario, che riesce a vincere da solo perché è alla guida di un movimento rivoluzionario in America e ha avuto una buona parte del suo partito schierata contro di lui, e invece Hillary, che è emerso come il leader del suo partito e con tutto il partito schierato dietro di lei. La questione tuttavia dei brogli è una questione che ha dominato, e c'è una notizia di ieri che viene al Dipartimento della Giustizia che per la prima volta in 50 anni ha ridotto drasticamente il numero di osservatori che vanno a vigilare sullo svolgimento regolare, diciamo, delle elezioni. Perché questo? Perché c'è stata una sentenza della Corte Suprema di 3 anni fa, secondo cui sarà importante mandare gli osservatori solo in alcune zone a rischio e in 4 stati. Nel 2012, pensate, gli stati in cui furono mandati degli osservatori era di 13 stati. Questo, vi dicevo, è un argomento dominante. Sul giornale abbiamo cominciato a pubblicare delle inchieste. Marco Valsani, anche lui con me a New York, qui per Il Sole 24 Ore, ha scritto un'inchiesta proprio sul tema che è uscita sul Sole 24 Ore di oggi. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, dunque, tu hai fatto un'inchiesta proprio sui brogli. Insomma, Trump dice che è tutto un imbroglio queste elezioni, ma è vero o no? La risposta rapida è no. Il no arriva un po' da tutte le parti, non solo dai democratici ma anche da molti repubblicani, visto che poi le elezioni vengono condotte e gestite a livello statale, quindi molti stati sono poi, diciamo, le autorità in carica della gestione delle urne sono poi funzionari repubblicani. Quindi no, però è quindi, vero. Quindi c'è un intervento anche a livello statale, ci sono tutti i funzionari di partito che sono già lì, che controllano, quindi non c'è bisogno di inviare, diciamo, dei funzionari di quel genere. Questo questo vuoi dire. Esatto, ci sono controlli a livello statale, ci sono norme a livello locale che regolano l'identificazione degli elettori e le garanzie, diciamo, che gli elettori non impersonino parti terze, quindi non trucchino, no, i risultati non vengano truccati. Ecco, infatti Trump dice, lo sappiamo tutti, qui vanno a pescare i morti, li mettono dentro le schede elettorali e poi vanno a votare sotto falso nome. Ma è vero, cioè tu mi parli della tua inchiesta, hai verificato che sono stati dei casi di brogli reali che si contano sulle punte di una dita, cioè com'è la storia? Sì, Trump fa riferimento a alcuni grandi dati legati a alcuni studi, in particolare uno studio del Pew Center, che aveva rilevato che c'erano 24 milioni di registrazioni con errori nelle registrazioni elettorali e che c'erano ancora nelle liste elettorali fino a 1,8 milioni di persone decedute, che erano morte. Però questo non vuole affatto dire che ci siano 1,8 milioni di votanti zombie, cioè di elettori che cercano di impersonare degli aventi diritto che sono appunto morti, né che questi errori nelle registrazioni siano errori significativi. Spesso si tratta di piccole variazioni di indirizzo che non sono state ancora registrate nelle liste elettorali. Trump fa riferimento a questi grandi numeri, ma poi le effettive irregolarità nel voto sono poche decine. Negli ultimi 16 anni si parla forse di 30, 40, 50 casi di effettivi voti irregolari scoperti dalle autorità e indagati. Fermo restando che dunque la democrazia americana è certamente più trasparente di una dittatura sudamericana, Marco, il tuo pronostico? Sono finite le elezioni? Parlavamo prima di Kellyanne Conway, la manager di Trump, che dice, ma non so, siamo indietro in effetti, un po' preoccupata. Che dici? Sì, stando ai sondaggi odierni, la partita sembra davvero persa per Donald Trump. È possibile che ribalti la situazione? Certo, tutto è possibile, ma sicuramente appare molto molto difficile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su media24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Marco Valsagna con me ai microfoni di America 24. Marco, cosa ti ispira oggi? Ma è morto Tom Hayden, che è stato tra l'altro a lungo marito di Joan Baez. Tom Hayden, certo. Beh, Tom Hayden era un grande attivista pacifista, direi il fondatore del movimento pacifista durante la guerra in Vietnam, sposato, Marco hai ragione, con Joan Baez, ma anche successivamente con Jane Fonda, cioè lui lascia Joan Baez, Jane Fonda lascia Roger Vadim subito dopo Barbarella, i due si sposano e poi lei lascia Tom Hayden e si mette con Ted Turner di CNN. Insomma, è un quadro nostalgico di un passato che non esiste più, per cui direi ispiriamoci a Joan Baez e penso a una canzone nostalgica di Joan Baez. Farewell, Angelina. Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow, but farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame, there's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina, the sky is trembling and I must leave. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.